24 mattino. Quindi possiamo dire che con un lodo, ma senza lode, hanno trovato una sintesi. Non incominciamo ad attaccare l'alta velocità a fini politici, sindacalista. Per favore, qui c'è l'errore umano di una normale manutenzione sulla linea e qualcuno ha sbagliato, ma l'alta velocità non c'entra niente. Ma guardi, in realtà non mi sembra che Abimelech, che abbiamo avuto ospite poco fa, il sindacalista della FIT CISL, abbia attaccato l'alta velocità. Semplicemente detto che forse un occhio in più serve. Poi ci sarà da chiedersi naturalmente su questo incidente, e poi arriveremo alle pagine dei giornali dedicate a questo, cosa non abbia funzionato nei meccanismi di controllo automatici che dovrebbero attivarsi in questi casi. Beh, sull'altra cosa, sì, il lodo conte sulla prescrizione per arrivare a una sintesi, come aveva chiesto Zingaretti l'altro giorno. Siamo in piena Prima Repubblica, ragazzi, in piena Prima Repubblica! Seconda parte di 24 mattino, dedicata alla rassegna stampa. Come sapete, sono le 7 e 21 minuti di questo venerdì 7 febbraio, con le prime pagine dei quotidiani dedicate, che si dividono un po' tra la questione del coronavirus e quella dell'incidente sulla linea dell'alta velocità. Dunque, se il Corriere della Sera titola "Deraglia il treno, la morte a 290 all'ora" e a centro pagina un titolo forte sul primo italiano contagiato, così anche per La Stampa, "Morte sui binari, rete sotto accusa", e a centro pagina "Coronavirus, il primo caso positivo in Italia". Il Quotidiano Nazionale sceglie l'opposto, "Virus killer, un italiano contagiato e morte ad alta velocità" a centro pagina. La Repubblica parla di disastro colpevole, però il titolo di apertura in realtà è sul governo, che stavolta si rischia, secondo il Quotidiano. Il Messaggero parla di scambio mortale. Il Fatto Quotidiano continua a condurre la sua battaglia in favore della riforma Bonafede. Prescrizione, le vittime siamo tutti noi, da oggi diamo voce a chi ha subito prima i reati e poi l'impunità ai colpevoli. In particolare oggi ci si dedica, il Fatto Quotidiano si dedica alla strage di Viareggio. "Tragico scambio" è il titolo di Avvenire. "Il virus del Frecciarossa" è il titolo del Giornale. "Se il treno uccide, i sindacati scioperano, non sanno fare altro" è il titolo di Libero. "Mattarella commissaria il Parlamento" è un titolo politico, invece quello della Verità. "Il messaggio del Quirinale per puntellare il governo", scrive la Verità, appunto, dopo aver consentito qualsiasi cambio di casacco o gioco di palazzo, ora il presidente fa sapere che se ci si azzarda a far cadere Conte, si vota, un modo per spaventare chi, insomma, vuole rompere all'interno dell'esecutivo. Il Sole 24 Ore, "Fisco, redditi bassi e famiglie, obiettivi della riforma IRPEF inizia", si apre questo famoso cantiere del quale stiamo parlando da qualche giorno. E poi l'ex Silva, "Arcelor a novembre può lasciare", scrive il Sole 24 Ore. Iniziamo più che da questioni laterali oggi, iniziamo dal coronavirus, però per parlare di un aspetto particolare. Allora, abbiamo visto nei giorni scorsi le infinite polemiche, e ne abbiamo anche parlato, sulla richiesta delle regioni del nord, di alcune regioni del nord, quelle a trazione leghista, non meglio, con presidenti leghisti, regioni del nord che hanno detto dovete consentirci di mettere in quarantena i bambini che sono tornati dalle zone a rischio infezione coronavirus. Apriti cielo, grandi proteste, una parte della politica ha reagito dicendo Zaia, Fontana, Fugatti e Fedriga sono razzisti, ce l'hanno con i bambini cinesi. Abbiamo avuto ospite Zaia l'altro giorno, l'avete sentito. Ebbene, apprendiamo oggi dal Fatto Quotidiano a pagina 8 che c'è una circolare allo studio dei ministeri che prevede esattamente questo. Non una scelta politica, raccontano Virginia Della Sala e Alessandro Mantovani a pagina 8 del Fatto Quotidiano, ma il prodotto dei confronti e delle riflessioni nati da tavoli tecnici tra Ministero della Salute, Protezione Civile e Istituto Superiore della Sanità. Per chi sta affrontando l'emergenza sul coronavirus, questa precisazione è molto importante, perché altrimenti si rischia che il testo su cui si sta lavorando in queste ore possa sembrare una risposta alle richieste avanzate dai governatori leghisti di Lombardia, Veneto, Friuli e Trento, che nei giorni scorsi hanno chiesto di precludere la scuola ai bambini che sono stati in Cina, e non una decisione presa guidati dal lume della scienza. Quindi che cosa succede? Potrebbe arrivare effettivamente questa circolare che dice esattamente questo. Dice: tenete in quarantena i bambini che sono tornati dalle zone a rischio, come per esempio quella di Wuhan. Va detto che parliamo di un numero molto limitato di persone. Potrebbe essere introdotta una precauzione con paletti molto stringenti, anche se non è chiaro quanti studenti riguarderebbe qualora fosse approvata, scrivono sul Fatto Quotidiano. Probabilmente non molti. In tutta Italia gli studenti cinesi sono circa 53.000. Il Ministero dell'Istruzione, nell'ultimo report sugli alunni con cittadinanza non italiana, ha specificato che l'82% è nato in Italia e che la possibilità che ne siano usciti è molto bassa. 2 su 3 poi frequentano la scuola d'infanzia o la primaria, con una concentrazione maggiore nei comuni toscani, poli dell'industria manifatturiera. Certo, si sottolinea nel pezzo, il tema è delicato, e lo è sicuramente. Lo è per tanti motivi. Oggi abbiamo visto la notizia, appunto, e ce l'hanno tutti i giornali, del primo italiano contagiato. È questo ragazzo che era andato a Wuhan. È stato a Wuhan un giorno. Era andato a trovare la fidanzata un giorno. E il giorno dopo gli hanno detto: beh, basta, dovete evacuare, vi riportiamo indietro. Dopodiché hanno trovato che era stato contagiato. Vedremo come andranno le cose, gli auguriamo naturalmente ogni bene. Intanto però gli effetti economici si fanno sentire. Se da una parte il Foglio ha un pezzo, un'intervista, una chiacchierata, per così dire, con l'ex ministro dell'economia Giovanni Tria, il quale insomma dice: guardate, state un po' sopravvalutando gli effetti economici di tutto questo, beh, però gli effetti concreti si iniziano a far sentire. È il caso per esempio di Fiat Chrysler, ma non solo di Fiat Chrysler. In realtà, se parlate, chiunque abbia occasione di parlare con un imprenditore che ha un minimo di rapporto con la Cina e che fa un po' di prodotti complessi che richiedono l'arrivo di pezzi dalla Cina, vi dirà esattamente la stessa cosa, che inizia a presentarsi il problema. Repubblica, pagina 17, effetto virus, a Fiat Chrysler mancano pezzi dalla Cina. L'allarme è arrivato dall'amministratore delegato Mike Manley, il quale dice addirittura che si potrebbe fermare una fabbrica europea. L'ultimo trimestre è stato in crescita, però naturalmente la preoccupazione su questo fronte c'è e riguarda non solamente Fiat Chrysler, ma insomma tutti i settori produttivi, quelli che ovviamente hanno a che fare con la Cina. Abbiamo raccontato di Prato giusto nella rassegna stampa di ieri. Veniamo ad altro. Allora, un po' di dossier sul tavolo del governo. Il primo è quello del quale vi abbiamo raccontato ieri. La ministra Lamorgese, che ha firmato una circolare nella quale si incrementano i soldi per l'accoglienza dei migranti. Una cifra, un aumento del 10-15% circa rispetto alla cifra dei 35 euro, che era la cifra precedente, poi tagliata da Salvini a una cifra tra i 19 e i 26 euro ogni giorno per ogni migrante accolto, e che però ci racconta Avvenire a pagina 10. Non basta al terzo settore. Le associazioni in campo criticano la nuova circolare del Viminale sui rimborsi. Per il sindaco Matteo Ricci, vicepresidente dell'ANCE, un passo avanti importante per le città. Non così per esempio per il vicepresidente di ASGI, Gianfranco Schiavone. Dice: la circolare è imbarazzante perché, se si legge bene, interviene su 3 punti specifici: il costo d'affitto, la sanità e il servizio di vigilanza, che nulla hanno a che fare con l'accoglienza e l'integrazione del servizio SPRAR. Lamenta in particolare il fatto che non ci siano più soldi per i mediatori culturali, quelli che devono consentire appunto poi di parlare sostanzialmente con i migranti che si trovano nei centri. Niente male da avvenire, e visto che siamo qua ed è la stessa pagina, pagina 10, dove il pezzo sull'immigrazione lo firmava Daniela Fassini, mentre invece questo lo firma Marcello Palmieri da Cremona. In realtà la vicenda l'aveva tirata fuori La Verità ieri, però insomma oggi Avvenire la riprende perché è diventata una piccola bufera. La ricetta per inquinare di meno? Fare meno figli. La polemica a Cremona per il volantino "Fai una spesa responsabile", diffuso dal comune in alcuni luoghi pubblici della città, si è conclusa con l'annuncio del ritiro del manifesto. Il consiglio shock campeggiava a pagina 15 del testo, dove tra le quattro azioni individuali più efficaci per evitare l'uso di auto aereo e di non consumare carne rossa figurava il consiglio di evitare le gravidanze, cioè per il bene dell'ambiente evitate di fare figli. Ebbene, ritirato con grande ignominia, una pubblicazione era firmata da due assessori, Rosita Viola e Simona Pasquali, la prima con delega tra l'altro alle politiche familiari. Insomma, sono arrivate naturalmente le scuse del comune di Cremona. Chiudiamo con un altro dossier sul tavolo del governo, e questo farà discutere parecchio, perché si sta pensando, come è già avvenuto in realtà in altri luoghi d'Europa, a una stretta sulla possibilità di affittare la propria casa come bed and breakfast, insomma Airbnb o simili. È in arrivo la stretta salva centri storici, ci racconta Il Messaggero a pagina 14 con un pezzo di Barbara Yerkov. Perché Franceschini, il ministro Dario Franceschini, starebbe pensando a inserire nel decreto turismo collegato alla prossima finanziaria una vera e propria stretta. Il collegato va presentato entro febbraio, già da qualche mese, senza clamore, Franceschini sta lavorando con i sindaci delle principali città turistiche per recepire le loro osservazioni e richieste in materia. Cosa si prevede? Ipoteticamente, un tetto massimo al numero di letti o appartamenti che si possono affittare ai turisti, restando nella disciplina fiscale del bed and breakfast, per contrastare il fenomeno di imprese commerciali vere e proprie che acquistano appartamenti in serie proprio allo scopo di affittarli ai turisti. Ma ci sta valutando anche un'ipotesi più dura, l'ipotesi di lasciare il regime fiscale agevolato solamente a chi affitta stanze all'interno della propria abitazione per un numero massimo di giorni all'anno, definendo impresa chi affitta appartamenti interi, che ovviamente per chi insomma ha un po' investito in tutto questo negli ultimi anni sarebbe una discreta botta. Pausa. Mattino. Presidente Mieli, buongiorno, ma è molto più semplice fare il Presidente della Repubblica che il Presidente del PD, è troppo semplice così. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ormai la campagna è iniziata, le vostre voci al 349-238-6666 per questa corsa che ci porterà al 2023, buongiorno Paolo. Comunque ha ragione l'ascoltatore, è molto molto più semplice fare il Presidente della Repubblica che fare il Presidente del PD. Concordo, infatti io non mi sono candidato, tu mi hai candidato solo alla Presidenza della Repubblica. Alla Presidenza della Repubblica. Che ho candidato a te alla presidenza del PD. Cosa che ovviamente non accetterò. Comunque, no, uno storico, uomo con grande senso istituzionale, ragazzi, ci siamo. E le vostre voci al 349-238-6666. Va bene, Paolo. Senti, fuori di candidature alla presidenza della Repubblica, io inizierei con te esattamente dal deragliamento del treno. Ne abbiamo già parlato alle 6.45, torneremo a parlarne alle 8.20 con Maria Latella. E però i giornali ovviamente hanno moltissimo su tutto questo, a partire dal Sole 24 Ore, anche sul fronte dell'inchiesta, con Maurizio Caprino che ci dà un'indicazione interessante sul tema dei sistemi automatici, soprattutto che potrebbero non aver funzionato come Dio comanda. È vero, l'articolo principale è quello sui fatti, sempre sul Sole 24 Ore, si chiama Marco Morino, Freccia Rossa deraglia a Lodi e subito l'evento sotto esame uno scambio, hanno subito escluso che si trattasse di un attentato, morti due macchinisti, 31 feriti, nel mirino i lavori sulla linea. Va bene, i fatti li conosciamo perché abbiamo visto la televisione tutto il giorno. Sono molto interessanti i commenti, oltre alle notizie che tu hai ricordato di Maurizio Caprin sull'inchiesta, e partirei da quello di Giorgio Santilli, proprio sul Sole 24 Ore, che dice che dietro incidenti e crolli c'è un paese senza la cultura della buona manutenzione. Qui mette il dito sulla piaga. Noi, come si è visto anche per la vicenda del ponte di Genova, non abbiamo in Italia una cultura della manutenzione. Ci sembra che fare delle opere, e ne facciamo poche, sia già tutto, ma poi la cultura della manutenzione ci sembrano come soldi sprecati, soldi inutili. Quando si va a fare tagli, sia tagli pubblici che tagli privati, vanno a fare tagli soprattutto sulla manutenzione, e le conseguenze si pagano. Sì, si pagano. Detto ciò, ricordano un po' tutti i quotidiani che il fatto che ovviamente la nostra rete ferroviaria è estremamente sicura e che in realtà l'alta velocità abbia un livello di manutenzione molto alto, insomma, ecco, quindi anzi in realtà forse l'incidente è dovuto proprio a un errore durante una fase di manutenzione, insomma, sarebbe dovuto a questo, almeno stando alle prime indicazioni. Hai ragione, ed è adesso la cosa da evitare che parta una campagna contro le ferrovie e l'alta velocità. Questo appare veramente per il momento, anche da quei dati dell'inchiesta, come un incidente dovuto al caso, a un errore umano al massimo, e invece se parte una campagna contro l'alta velocità ci si dimentica di tutti gli elementi messi in rilievo dall'editoriale sul Corriere della Sera da Dario Di Vico, è che dove nei paesi, nelle località toccate dall'alta velocità, c'è stato uno sviluppo incomparabilmente maggiore di quelli che invece dall'alta velocità sono esclusi. Sì. Che questo è il primo incidente, ed è un incidente davvero con ogni probabilità dovuto al caso, e che le reazioni italiane sono reazioni stupide, permettimi di usare questo termine. Per esempio la prima, che oggi sono state dichiarate 2 ore di sciopero delle ferrovie. Ma che c'entra uno sciopero delle ferrovie? Giustamente, lo sottolineo, Alessandro Sallusti sul Giornale mette in evidenza questo elemento con un editoriale che condivido: il buon senso non sciopera. Non mi dire che uno sciopero indetto a casaccio di 2 ore che ritarda tutti gli spostamenti in una giornata successiva a quella di ieri, che ha dovuto pagare un prezzo altissimo di ritardi per quello che era accaduto la mattina nei pressi di Lodi, non mi dire che è una buona soluzione, insomma, è proprio un riflesso automatico che anch'io condanno. Allora, ti porterei, poi andiamo alla politica, dopo la pausa, alla politica italiana per meglio dire. Prima di andare alla politica italiana ti voglio portare alla politica tedesca. C'è una questione che sta mettendo tensione in Germania da qualche giorno, ed è la vicenda della Turingia e del governatore della Turingia, una regione appunto della Germania. Il governatore della Turingia, un liberale, è stato eletto nelle ore scorse con i voti di Alternative für Deutschland, il partito, insomma, di estrema destra tedesco, per poi dimettersi, insomma. No, un accordo indicibile che poi è stato messo da parte. Sì, gli elementi di questo accordo che hanno portato all'elezione di Kemmerich, così si chiama il liberale della Turingia, sono questi. 3 mesi fa si era votato. Il presidente uscente, che era del partito di ultrasinistra, che si chiama Die Linke, aveva ottenuto un buon risultato, ma soprattutto erano aumentati e di molto questi di Alternative for Deutschland, cioè il partito neonazista, lo dico per semplificare. Come è noto, in tutta Europa i partiti di centro, democristiani o conservatori, così, mettono una barriera, cioè un cordone sanitario intorno ai partiti di estrema destra, ai partiti neonazisti. Invece in Turingia il capo locale della Democrazia Cristiana ha stretto un accordo con questi neonazisti per fare eleggere Kemmerich. Immediatamente il rimbalzo sulla politica nazionale è stato enorme. La Merkel, che si trova in Sudafrica, ha dovuto dire che era una cosa orribile. I socialdemocratici hanno minacciato di rompere ogni accordo anche locale con Die Linke. E Kemmerich, capito l'andazzo, si è dimesso. Fin qui uno dice, sì, bene, un fatto, una reazione. Sì. Però che cos'è il segreto di questa notizia? È che sotto banco questi partiti centristi che dicono di essere contrari, questo lo mettono, sì, in evidenza, soprattutto c'è un articolo del Manifesto di Marco Bascetta, questi partiti sotto banco stanno chiaramente trattando con i partiti non esistenti. È una cosa che non accade solo in Germania, sì, sono difetti di un sistema che fa la voce grossa ma che poi sotto banco tratta. Traffico. Mattino. Ed eccoci, veniamo alla politica italiana. Beh, prima di tutto il capitolo prescrizione, che secondo il quotidiano La Repubblica fa addirittura ballare il governo. Beh, ti devo chiedere, Paolo, se hai notizie delle sardine anche oggi. Come proprio La Repubblica, bastava che voltassi una pagina, pagina 10, ecco Ilaria Venturi che dice. Ma sai Paolo, tu sei automaticamente attratto dalle pagine che trattano le sardine. Io sono un po' più distante, diciamo. Reali inglesi e sardine sono i miei interessi principali. Io mi sollazzo solo leggendo. Dice che ma un titolo tutta pagina, un grande titolo per i lettori di Repubblica: il governo apre alle sardine, primi incontri con i ministri, la settimana prossima vedranno Provenzano e Boccia, diplomazia al lavoro per la data con Conte, cioè tutti i diplomatici. Non ti fa ridere questa roba di diplomazie al lavoro, le diplomazie delle sardine del governo? Ma è un po' buffa, no? Qui andremo a litigare, non ti permetto di di ironizzare, no, hai ragione. Chiedo scusa, per carità. Presidente, non sia mai. A Roma ci sarà la grande nuova manifestazione antipopulista. Io l'unica cosa che non capisco è che avevano annunciato un periodo di silenzio che secondo me avrebbe caricato di più le aspettative, invece si danno da fare come matte le sardine. Nel frattempo, come avrai visto, lo leghiamo a questo, hanno trascinato nei guai il grande fotografo Oliviero Toscani, certo, che è stato licenziato da Benetton, perché in seguito a quella foto organizzata da Toscani dei capi delle sardine in compagnia di Benetton, che tanto scandalo ha provocato, Toscani si è lasciato andare a dichiarazioni, sì, improvvide, ma in fondo è crollato. Chi se ne frega, insomma, di un ponte che crolla, insomma, sì, queste cose qua. E allora i Benetton, che sono in una difficile situazione con lo Stato italiano proprio per quel ponte, sono state costrette a licenziare Toscani. Secondo me è un licenziamento di quelli finti, insomma, e quindi fra un po' Toscani e dice che tornerà di nuovo sotto abbraccio, però dalle sardine si è arrivati a dei grandissimi guai per Oliviero Toscani, del che mi dispiace. Vedi l'effetto delle sardine, invece l'effetto della non discussione. Dire adesso passiamo cose serie. No, sono tutto serissimo. La prescrizione che sta facendo ballare, come si diceva, il governo. Ieri c'è stato l'ennesimo vertice di maggioranza, ennesimo rinvio, ci par di capire, con qualche tensione in più e ognuno che resta sulle proprie posizioni, a partire da Italia Viva, no? Beh, no, Italia Viva resta sulle proprie posizioni, però come raccontano Carlo Bertini e Francesco Grignetti sulla Stampa, c'è stato un accordo fra PD, Movimento 5 Stelle e LeU per fare una diversa prescrizione. Adesso non la sto a raccontare, solo dopo l'appello, E Italia Viva ha tenuto il punto e a questo, in questo momento lo scontro è altissimo perché c'è tutti nel governo contro il gruppo di Renzi. Se il gruppo di Renzi tiene il punto, due sono le ipotesi: o il gruppo di Renzi si dimostra irrilevante sia alla Camera che al Senato, alla Camera è probabile, ma al Senato sarebbe curioso, oppure il governo rischia di saltare per aria. Gli stessi ministri dicono adesso contro l'aritmetica, vuol dire che si va alla conta dei numeri. Se vuoi una mia previsione, io sono convinto che alla fine un accordo di rinvio, come tu hai detto all'inizio, sì, li troveranno, perché dubito che con questi chiari di luna. Però il fatto che il giorno prima della grande manifestazione delle sardine ci sarà il 15 febbraio una altrettanto grande manifestazione dei 5 Stelle, sì, che è stata convocata da Di Maio a Roma, ne parla Maria Teresa Melli sempre sul Corriere della Sera, e questo preoccupa Zingaretti e lo Stato Maggiore del Partito Democratico. Vuol dire, ma come? Siamo qui e i 5 Stelle vanno a manifestare contro chi manifestano, sì, i 5 Stelle? Loro manifestano contro dei tentativi di tornare sulla norma, sì, che tagliava le provvidenze ai parlamentari. Guarda, non ho capito, sì, neanche. Sì, no, molto bene. Ieri abbiamo fatto sentire un audio di Di Maio che diceva: vogliono cancellare tutte le nostre riforme, ma vogliono chi? Sì. Visto che il Movimento 5 Stelle è in maggioranza e al governo, insomma. No? Parla di questa congiura, forse allude a una manovra della destra in compagnia di Renzi, però, come capisci bene, non è un quadro di stabilità. In tutto questo il democratico Emanuele Fiano, cioè un capo del Partito Democratico, dice: anche i decreti di sicurezza non funzionano, è l'ora di intervenire. Cioè è venuto il momento, per carità è giustissimo, erano di questa opinione fin dall'inizio, ma è venuto il momento, dice, di rimettere in discussione anche i decreti di sicurezza che, aggiunge Zingaretti, non vanno più chiamati decreti di sicurezza ma decreti di odio. Grande è la confusione sotto il cielo, diceva il presidente Mao Zedong, sì, la situazione è eccellente. Oh, dice, so tu dice, ne puoi trarre la stessa conclusione di Mao Zedong, però la confusione sotto il cielo è davvero grande. Sì. Ci dice un ascoltatore, ci dice: dai, perché la menate? Dite che arriva Mario, intendendo Mario Draghi. No, non mi sembra l'aria in questo momento, però nella vita non si sa mai. In tutto ciò, insomma, la verità. Guarda, rispondo all'ascoltatore, contravenendo, io dovrei solo. No, prego, prego, e figurati. Ma Mario Draghi non viene non perché non lo vogliano la maggioranza, ma non viene proprio perché c'è questa grande confusione sotto il cielo. Mario Draghi potrebbe prendere in mano la situazione come Presidente del Consiglio, improbabile, o come Presidente della Repubblica, più probabile, solo quando la situazione sarà un po' chiarita, ma in questo caos di manifestazioni contro manifestazioni sardine e 5 Stelle, detto con tutto il rispetto sia per le sardine che con i 5 Stelle, Mario Draghi si gode il suo meritato riposo. Sì. E qua dicevo la prima pagina della Verità, dice: Mattarella commissaria il Parlamento, no? Dice che il Presidente fa sapere che se ci si azzarda a far cadere Conte, quindi a cambiare, no, Presidente del Consiglio, si va al voto, un modo per assicurare forse, no, la durata di fatto, sì, perché, della maggioranza. Se cade Conte, in realtà Mattarella dice queste cose, fa benissimo a dirle, ma se cade Conte è quasi impossibile che si vada alle elezioni, e quindi i tentativi di far cadere Conte sono per fare un governo successivo, che è o un governo Conte-Ter, cioè un terzo governo Conte, e al posto di Italia Viva verrebbero alcuni centristi, ex berlusconiani, dal gruppo misto, non so dove, ne hanno già contati 50 che sono a disposizione, oppure un governo con questa maggioranza ma con un altro Presidente del Consiglio. Quindi Mattarella ha messo uno stop a queste manovre, dice: no, guardate, si va alle elezioni, ma tanto tutti sappiamo che le elezioni non ci si va, e quindi continua il terremoto di cui abbiamo parlato. Andiamo a chiudere. Oh, dico a Roberto che no, non credo che Oliviero Toscani andrà a fare servizi fotografici per comunioni e battesimi, in tutta sincerità, a questo punto, dopo la fine dell'accordo con i Benetton. Allora, grazie. La mia scommessa è che torni con i Benetton. Grazie Paolo Mieli anche per oggi. Ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana, Grazie mille anche a voi. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, torneremo a parlare di sicurezza sulle ferrovie, torneremo a parlare dell'incidente che è avvenuto ieri e che vi abbiamo raccontato con le due vittime, i due macchinisti, 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio come sempre, e poi anche l'800-24-0024 se volete dire la vostra e intervenire, è il numero, questo è il numero, il nostro numero verde. GR, a tra poco.